Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. You went from name calling, name calling. To calling. Allora, non è Nicoletta e non è nemmeno Deborah. Inizia con la S, ecco, e chissà, già per me non va bene. Chissà se i nostri ascoltatori sanno qual è il nome più scelto da qualche anno a questa parte per le bambine italiane. E per i bambini, per i maschietti, è facile per la pronuncia di Nicoletta. Inizia con la F e sembra che ci sia l'influenza di un VIP. Sì, un personaggio davvero importante, vive a Roma, non è quello che si veste di giallo e rosso e gioca a pallone, però che si anche comunque è un gran bel ragazzo. Assolutamente. Ma è quello che si veste di bianco e vive in Piazza San Pietro. Eccolo là. Allora, insomma, il nome lo avete capito, è Francesco, e sembra proprio che si sia rafforzato a partire dal 2013, verosimilmente proprio in seguito all'elezione del Sommo Pontefice, appunto si sia rafforzata la diffusione di questo nome tra i bambini italiani. Non è che lo diciamo noi, attenzione, perché lo ha detto proprio ieri l'Istat pubblicando i dati sulla natalità in Italia relativi al 2015. Allora, come hai anticipato, per le bambine resta in testa un nome che inizia con la S, Sofia. Vedi che se ti impegni ti viene bene. Mi sto allenando, come l'anno precedente d'altronde, insomma i gusti della maggioranza degli italiani si confermano, ma noi vogliamo anche testare quello dei nostri ascoltatori. Quindi 800 24 00 24, se doveste scegliere oggi un nome, quale sarebbe per voi il più bello per un bambino e quale per una bambina, e soprattutto perché? Magari state per diventare mamme o papà o avete scelto da poco il nome per il vostro pupetto, allora raccontatecelo, e anche raccontateci se invece voi portate nomi curiosi perché li avete ereditati dai nonni. Infatti. Io non ho figli, ma so già magari come li avrei Ippolito. Chiamati. Esatto, Ippolito Nievo. So già come li avrei chiamati se li avessi avuti. Come? Enrico e Margherita. Bello. Come Enrico Beruschi e Margherita. Adesso ci Vedi? Penso che c'è il... No, non c'entra nulla, ma tu pensa che cosa mi è venuto in mente. Detto questo, se con il cuore scegliamo il nome più bello e che sentiamo più giusto, dall'altro però, eccoli qua, che battono cassa, ci sono sempre loro i denari, lo sappiamo, giocano un ruolo importante nella scelta di mettere al mondo un bambino. Le insicurezze economiche si sentono tutte in questo dato negativo, quasi 17.000 in meno i nati rispetto al 2014, a conferma della tendenza alla diminuzione della natalità, meno 91.000 nati pensate a partire dal 2008. Crisi di natalità evidente, dunque lo raccontano stamattina tutti i giornali. Noi parleremo anche di questo oggi, vero Nicoletta? Tra un po', ma in certo. realtà parleremo un po' di famiglia a 360 gradi nel corso di tutta la puntata. Sì, parleremo anche di nonni, sì. di queste figure straordinarie e... ne parleremo con i nostri ascoltatori e commenteremo anche questa relazione straordinaria tra nonna e nipoti, una relazione che fa bene ad entrambe. Esatto. E intanto ti dico che Michele da Bergamo a febbraio, che ha un nome bellissimo, il papà. Nome del mio primo nipote. Certo. Ecco. E a febbraio chiamerà la sua bambina Sveva. Con la S, con Sveva, la S anche, certo, anche lui. Invece io confermo i nomi delle mie figlie a distanza di anni, e cioè Martina e Veronica. Avessi avuto un maschio l'avrei chiamato Andrea. Continuate a scriverci, aspetta, a chiamarci. Scrivono anche agli SMS che io invece vedo da questa parte. Elisa, cioè qua si chiamano tutti come i miei nipoti. Elisa dice Miriam per femmine. Elisa è il nome della mia terzogenita nipote. Non è troppo usato, è il nome di Maria in ebraico. Per il maschio invece Marcello, il nome di mio padre, anche in questo caso poco usato e quindi per me più interessante. Davide invece suggerisce di riscoprire i nomi classici, maschio Noè, un po' impegnativo, e femmina invece Maria. Bene. E a tutto me piace Anna. E la borsa è femmina e così si Andiamo. Chiama. Allora, cominciamo velocemente con la giornata sui mercati finanziari, enfatizziamo un po' questo recupero di Piazza Affari in rialzo di un punto percentuale dopo aver perso quasi due punti ieri, Parigi più 0,8, Francoforte più 0,32, oggi invece è una seduta negativa per Londra, meno 0,17%. Saranno giornate sicuramente ancora attese in vista del referendum di domenica per quello che riguarda il nostro paese. un forte nervosismo che ieri è tornato a scaricarsi di nuovo su tutti i titoli del settore bancario, anche come abbiamo più volte richiamato a seguito dell'allarme lanciato dal Financial Times, che ha parlato di 8 banche a rischio se vincesse il no. E intanto in tutto questo, ieri dopo il tracollo subito con un ribasso di 13 punti, recupera circa 6,5 punti. Banca Monte dei Paschi, proprio nelle giornate del complicatissimo aumento di capitali, in questi giorni è in corso la prima fase, è in corso la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni da parte dei detentori di queste obbligazioni. Ieri il grosso pacchetto di obbligazioni in portafoglio lo ha convertito Generali, di fatto diventando in questo momento il primo azionista di Monte dei Paschi con un controllo dell'8% del capitale. Il titolo appunto oggi più 6%. Recuperano anche gli altri bancari, UbiBanca più 3,7, Unipol più 3, Mediobanca più 2,74, Pop Milano più 2,56, Intesa San Paolo più 2,51. Insieme alle banche stamattina c'è anche Salvatore Ferragamo che guadagna quasi 3 punti. In negativo abbiamo pochissimi titoli e perdono anche pochino: Tenaris meno 0,6, Campari meno 0,3, Eni meno 0,16, Terna meno 0,15%. Tra poco il Tesoro italiano mette in asta CCT e BTP a 5-10 anni per 5 miliardi e siamo in attesa in particolare del rendimento del BTP, perché è atteso indeciso rialzo di almeno 0,5 punto percentuale. E a parte le turbolenze di borsa, le notizie in primo piano sui giornali oggi sono tante. Ce n'è una, come anticipavamo poco fa, la questione della bassa natalità italiana. Sempre più culle vuote nel nostro paese. L'Istat è tornato a confermare per il 2015 l'ennesimo calo delle nascite in Italia. In un anno le iscrizioni all'anagrafe sono calate di 17.000 unità e negli ultimi 7 anni, senti qua Nicoletta quanti dati interessanti sono riusciti da questo rapporto. La diminuzione di bambini nati da coppie di genitori entrambi italiani segna meno 95.000. Ma anche gli stranieri residenti, che avevano fatto un po' la differenza in questo frangente temporale, di anno in anno fanno meno figli. L'unico dato in crescita è quello dei bambini che non hanno genitori sposati, ormai 1 su 3 dei nuovi dati. E tra l'altro, ad arricchire le nostre statistiche, ce ne mettiamo un altro di dato: il tasso di fecondità delle donne italiane è sceso ulteriormente rispetto al picco già basso, noto da qualche tempo, era l'1,35%, e quindi siamo alla quota più bassa di sempre, 1,27. Ricordo che abbiamo anche dedicato delle puntate a questo tema, che potete trovare nel nostro archivio, naturalmente dalla parte della prevenzione e della salute. Tendenze, quelle numeriche che abbiamo appena snocciolato, di cui sono ben consapevoli le donne e probabilmente non mancheranno di parlare di questo tema nel weekend a Roma nel corso dell'evento Donne al Lavoro. Saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina Francesca Guinand, giornalista, da 2 anni cura la rubrica Mom at Work di Lettera 43 ed è presidentessa di Donne al Lavoro Onlus. Francesca, buongiorno, ho fatto il biglietto da visita corretto? Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Grazie Francesca. Allora, l'attualità vi viene incontro con queste nuove statistiche, per cui arricchiscono un programma già ricco, che era anche molto già focalizzato sui temi della bassa natalità e sul fatto appunto che naturalmente molto spesso fare un figlio significa anche rimettersi nel mercato del lavoro con grande difficoltà per le donne, e questo è uno dei tantissimi motivi, forse il più importante, per cui in Italia purtroppo le donne devono fare sempre meno figli. Allora, che cosa esatto racconterete? È come dici, il festival è nato ed è stato ideato da un'esigenza, perché purtroppo non si parla abbastanza di queste tematiche. In Italia, come avete già raccontato, le donne non fanno figli e le donne non lavorano, perché lavora ancora meno di una donna su due. Solamente il 48,2% delle donne ha un impiego in Italia. È troppo poco. Siamo ferme come il paese. Dobbiamo guardare al futuro ed è per questo che per questa prima edizione del festival abbiamo scelto come titolo Ecco il futuro dell'Italia. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare al domani e dobbiamo assolutamente sperare e lavorare affinché ci sia un'Italia con più figli e più donne che lavorano. Certo. Quindi è la prima edizione del festival. Sai che mi era sfuggito questo piccolo particolare? Allora, a distanza te lo teniamo a battesimo, se ti fa piacere. Io, Nicoletta, due donne impegnate sul lavoro, io senza figli, Nicoletta con figli, ma sempre comunque con grande fatica a provare appunto a barcamenarci in tutte le cose che dobbiamo fare nel corso della giornata. Francesca, le mamme troppo spesso rinunciano al lavoro anche non considerando le conseguenze economiche di queste scelte spesso obbligate. Nessuna autonomia, nessuna pensione. uno scenario del tutto nuovo si sta facendo per i giovani e so che voi dedicherete uno spazio speciale alle giovani donne italiane, alle under 24. Con che iniziative e che messaggi? Esatto, noi dedicheremo alle ragazze un talk nel quale affronteremo il tema dei lavori del futuro. Le ragazze si laureano più e meglio dei colleghi uomini, principalmente però in materie umanistiche, mentre i lavori del futuro sono lavori legati alle materie STEM, alle materie scientifiche, alle materie tecnologiche, ed è a questo che le ragazze devono iniziare a guardare sempre di più. Abbinato al talk che sarà moderato da Barbara Kenny della rivista In Genere, ci sarà anche un workshop pratico. Il messaggio che vogliamo dare con questa manifestazione è doppio. Da un lato dobbiamo fare cultura, perché le persone spesso neanche sanno quali sono i propri bisogni. Le donne si pongono molti limiti, principalmente psicologici, ma se iniziamo già noi a metterci dei limiti non arriveremo da nessuna parte. Dall'altro vogliamo offrire delle soluzioni pratiche. È ovvio che non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo dare un lavoro alle 800 donne che si sono già iscritte alla nostra manifestazione, ma possiamo e vogliamo dare degli input pratici, perché spesso la gente non sa a chi rivolgersi, non sa come iniziare a scrivere, per esempio, un curriculum, assolutamente. Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, e soprattutto si brancola veramente nel buio quando si interrompe la propria carriera professionale di qualunque tipo per far bambini, per far crescere la famiglia correttamente. Desiderio assolutamente da appoggiare per tutte le donne. Poi quando si deve rientrare si ha sempre la sensazione che il mercato del lavoro sia radicalmente cambiato, magari nel giro di pochissimo tempo rispetto a quello che avevamo lasciato, e rimettersi magari in gioco è difficile. Sì. Su questo vorrei dirti due cose. Sì. In Italia perde il lavoro dopo la maternità una donna su quattro, è un numero altissimo e molto grave, questo racconta tanto del nostro paese. Dall'altro però le aziende cercano sempre di più queste fatidiche soft skills che noi uomini e donne, mamma e papà, sviluppiamo proprio con la nostra genitorialità. Quindi dobbiamo e possiamo rimetterci in gioco, e ci sono aziende, noi le racconteremo durante la manifestazione. Benissimo. Ci sono aziende che apprezzano questo tipo di skill. Quindi una manifestazione con risvolti molto concreti. Francesca, 10 secondi per dirci e darci tutti i riferimenti di questo evento per le donne che potessero raggiungervi a Roma. Dove devono andare, e dacci qualche ragguaglio in più. Sabato 3 dicembre dalle ore 11, mancano pochissimi posti, l'iscrizione è gratuita, sul sito donnellavoro.it tutte le informazioni. Benissimo, noi lo faremo veicolare questo vostro indirizzo anche sui nostri profili social. Grazie molto a Francesca. Grazie. Guinandi, in bocca al lupo, presidentessa di Donne al Lavoro Onlus. E peraltro è proprio la settimana della famiglia, perché dal 1 al 3 dicembre anche a Trento c'è un grande evento, è il Festival della Famiglia, con tutte le voci protagoniste delle politiche di transizione all'età adulta, chiamate a confrontarsi su nuovi scenari possibili fra proposte, idee e testimonianze. Questo è il biglietto da visita di questo evento. Dove andiamo? Prendete nota. Andiamo a Roma o a Trento? Siamo qua a Milano. Tutte e due, dai, un po' a Trento e un po' a Roma. Vedi un po' che io devo andare in Toscana sto weekend, quindi proprio niente. Andiamo a sentire piuttosto che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. A tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme qua a Cuore Denari, sono le 10.49 per la rassegna stampa di Cuore. Parliamo di cuore e lo facciamo perché ci sono importanti novità che lo riguardano. Al Centro Cardiologico Monzino di Milano sono stati eseguiti con successo i primi interventi chirurgici alla valvola mitrale senza, attenzione, aprire il torace del paziente. Allora abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Gianluca Polvani, che è responsabile dell'unità di cardiochirurgia, sviluppo iniziative del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie a voi. Intanto professore, parliamo della valvola mitrale, localizziamola e ci spieghi che cosa succede, che cosa fa e che cosa succede se si deteriora. La valvola mitralica è una delle due valvole del cuore sinistro, cioè la valvola aortica e la valvola mitralica. Possiamo immaginarla come una porta a due ante. La prima anta è il grande lembo, la seconda anta è il piccolo lembo. I due lembi della porta o della valvola si aprono per far passare il sangue ossigenato dai polmoni in ventricolo sinistro. Okay. Quando il ventricolo sinistro si deve svuotare, la porta, la mitrale, si richiude. se il sistema di apertura o di chiusura incomincia a deteriorarsi, la valvola va incontro a insufficienza o a stenosi e compaiono una serie di sintomi che vanno dalla dispnea, che è la mancanza di fiato, alla comparsa di aritmie, a fenomeni anche più gravi come lo scompenso, l'edema polmonare, eccetera. Però la buona notizia è che si può intervenire, e una notizia ancora più buona è che voi siete riuscite ad intervenire in modo molto gentile, sempre in modo meno invasivo. Ci racconta che cosa siete riusciti a fare? Ci vuole spiegare in che cosa consiste questa tecnica e come siete arrivati a questo risultato? Perché noi raccogliamo i vostri successi, ma spesso ci dimentichiamo tutto il percorso che sta a monte di questi successi. Professore. Allora, noi siamo arrivati a quella che definiamo endoscopia cardiaca. L'endoscopia cardiaca è un modo differente, nuovo, di trattare la patologia cardiaca. Sa che un tempo esisteva una frase in ambito chirurgico che era grande taglio, grande chirurgo. Sì. Per fortuna negli ultimi 15 anni si è prestata maggiore attenzione alla riduzione dell'estensione dell'incisione, non solo per motivi estetici ma anche per motivi funzionali. Qual era il problema? Che anche se andava a ridurre l'incisione, a un certo punto il chirurgo, dovendo guardare attraverso questa incisione, non poteva scendere sotto un certo livello, perché non vedeva cosa faceva e non vedeva la struttura circostante, quindi aveva timore che qualcosa accadesse. Sì. L'endoscopia cardiaca è un modo diverso, perché permette di visualizzare, attraverso l'introduzione di una telecamera in cavità toracica, che permette di vedere in maniera assolutamente dettagliata, in tridimensionale su uno schermo, il cuore, la cavità cardiaca, la valvola, ma anche tutta la cavità toracica. Quindi l'incisione, che sono 3 centimetri, serve solo a introdurre gli strumenti per lavorare, che sono la pinza, le forbici, il portaghi. A questo punto cambia la mentalità del cardiochirurgo, che non ha più necessità di fare un'incisione, ma potendo vedere attraverso una struttura, uno schermo, una telecamera, tutto quello che c'è nell'apparato cardiaco, lavora senza problemi. E avete tutto sotto controllo la situazione. Naturalmente un tipo di intervento, un intervento di questo tipo si riflette in importanti vantaggi per il paziente, anche meno complicanze, ad esempio post-chirurgiche, una degenza ospedaliera più breve. Professore? Sì, i vantaggi sono: non avendo un'incisione chirurgica ha meno dolore, ha meno complicanze legate all'incisione stessa di tipo infettivo o non. Terzo, ha una ripresa immediata dal punto di vista della capacità respiratoria del paziente, non ha la sternotomia, non ha la toracotomia. E non ultimo, anche dal punto di vista, se vuole, psicologico, perché se è vero che ogni volta che uno guarda la ferita di 15 cm ricorda, se rapportiamo il ricordo alla dimensione della ferita, più piccola è la ferita e più breve è il ricordo. Professore, ma questa chirurgia endoscopica per trattare queste valvole malfunzionanti è adatta a tutte le situazioni o ci sono delle controindicazioni? Il paziente va selezionato con particolari caratteristiche? È adatto nel trattamento delle patologie valvolari, mitraliche, aortiche, tricuspidali, difetti congeniti come il difetto interatriale. Ci sono dei limiti che possono essere legati alla conformazione toracica del paziente. E in alcuni casi anche se il paziente è già stato operato o operato più volte, diventa difficile utilizzare il sistema perché c'è tutta la struttura che è appiccicata, sia la parte toracica polmonare che la parte cardiaca, per cui in quei casi si ricorre ancora all'incisione classica chirurgica. Grazie professore, grazie per essere stato con noi per questo aggiornamento. Intanto speriamo di sentirci presto, dedicheremo una puntata ad hoc su tutte le novità che riguardano la chirurgia per il nostro cuore. Voglio salutarla con una frase di Rita Levi-Montalcini, che oltre a farci battere il cuore riesce anche a descrivere un po' la sua essenza. Grazie professore, grazie, alla prossima. Tutti dicono che il cervello sia l'organo più complesso del corpo umano. Da medico potrei anche acconsentire, ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. Ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. Rita Levi-Montalcini. dedicata a tutti gli ascoltatori di Cuore Denari. Sì. E noi, a proposito di emozioni, parleremo nuove emozioni e non solo. Una emozioni. Bella puntata, tutta intrecciata, come la chiamiamo noi, dedicata ai nonni per tanti aspetti, intanto per il ruolo che queste figure hanno nella vita di tutti noi, ma anche perché c'è stata una discussa sentenza di un tribunale, quello di Venezia, che invece ha messo in discussione il diritto dei nonni a partecipare attivamente alla vita dei nipoti. Cercheremo di capire qual è anche il presupposto di questa sentenza, insomma. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Allora, il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è un diritto di serie B. È un'espressione dura, un po'... ci fa senso sicuramente. Nella sostanza però questo è quanto si ricava dal decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia, che è stato pubblicato appunto il 7 novembre scorso, e questa pronuncia ha formulato un'originale restrittiva interpretazione. Adesso devo andare un po' sul tecnico, poi avremo un esperto naturalmente che ci traduce tutto, ma c'è una originale, dicevo, restrittiva interpretazione dell'articolo 317 bis del Codice Civile. In sostanza il giudice in questione ha respinto l'istanza di due nonni materni di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere significativi rapporti con la nipote, figlia della loro figlia, considerandolo, questo diritto, perfettamente comprimibile laddove debba cedere il passo a quello dei minori di condurre un'esistenza equilibrata. Ho messo fra virgolette, certo, questa frase perché è proprio quella contenuta in questo decreto. È un tema delicatissimo che affrontiamo con Nicoletta questa mattina. Dobbiamo intanto entrare nel merito di questa pronuncia per provare a capirne anche le ricadute e la portata. Abbiamo interpellato intanto per questo primo approfondimento appunto di Cuore e Denari l'avvocato Anna Galizia Danovi, avvocato del Foro di Milano e presidente del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia, che salutiamo. Avvocato, buongiorno. Galizia Danovi, buongiorno e grazie. Buongiorno e benvenuta. E quindi oltre a questo aspetto, Nicoletta, però giustamente ce ne mettiamo anche un altro. Certo, mettiamo l'aspetto di Cuore, l'aspetto relazionale, il rapporto tra nipoti e nonni. Tutti noi abbiamo, non tutti noi hanno avuto la fortuna di avere un nonno, ad alcuni è proprio questa figura è mancato, altri, io sono stata molto fortunata, hanno avuto dei nonni molto presenti e quindi ci sono anche i ricordi, i nonni ci formano. Abbiamo in linea con noi Alberto Pellai, il professor Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano, ma per noi Alberto. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Che ci aiuterà a leggere insieme all'avvocato Galizia Danovi un po' questa notizia e interpretarla. Sì, infatti, naturalmente, se volete, microfoni aperti anche a voi, 800 24 0024, come sempre potete interagire con noi su questo argomento. Avvocato Galizia Danovi, allora il tema della tutela dei nonni nei rapporti con i nipoti è sempre molto delicato nei casi di separazione, non solo, perché se è vero da un lato che si parla di parenti diretti, dall'altro la legge riconosce sempre l'ultima parola alla madre o al padre. Dico bene, insomma, chi sono questi nonni? Chi sono i parenti diretti di fronte alla legge? Allora, intanto buongiorno a tutti. Anche a lei. E chiedo scusa per la voce, malanni di stagione, erisimo, ecco, e chinacea, Milano, le direbbe Nicoletta. Fuori. Allora, io vorrei preliminarmente, anche perché la mia esperienza è di lunga data, ricordare che questo nonno, questa figura di nonno, che da sempre ha avuto un significato enormemente importante nella gestione anche quotidiana del minore. Penso all'aiuto fornito ai genitori che lavorano entrambi e sono quindi in difficoltà. Questo nonno però dalla legge fino all'anno 2006 non ha mai avuto un riconoscimento esplicito sul diritto di continuare a mantenere rapporti quei rapporti importanti col minore che aveva da sempre intrattenuto e che a un certo punto, a volte in occasione anche della separazione del conflitto genitoriale, veniva a perdere. Quindi cominciamo a dire che noi stiamo parlando di una normativa abbastanza recente. Ora, tenga presente quindi che, giusto per fare due punti, gli articoli sulla separazione nel codice civile, l'articolo 155, fino al 2006 non fa cenno alcuno al diritto dei nonni. Purtroppo però, anche quando ne viene fatto cenno, rimane lettera morta, nel senso che se ne occupa molto poco, pochi levano diciamo la loro reazione, ricorrono al giudice, non si arriva quindi a una giurisprudenza, fino a quando nel 2014 il legislatore ritorna su questo argomento, ritorna su questo diritto e inserisce il famoso articolo 317 bis, di cui magari dopo sarà importante succintare il contenuto. Esattamente. Prima di citarlo, avvocato, però magari per sciogliere anche qualche curiosità per i nostri ascoltatori, lei è a conoscenza dell'antefatto che ha portato a questo decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia? Che cosa è successo? Non per entrare ovviamente come dei guardoni nel caso di questa famiglia, che sarà stato anche doloroso per capirne qualcosa di più, insomma, perché se è vero che la sentenza è restrittiva rispetto a questo articolo del codice civile che ci sembrava così innovativo, cosa sarà mai successo? Esatto, allora il problema che lei giustamente pone è il problema che mi sono posta anch'io, anche perché quando ho letto insomma questo decreto così sbrigativo, se noi lo leggiamo a fronte di probabilmente una tragedia familiare sotto il profilo affettivo, viene sbrigata in pochissime righe il rigetto della domanda dei nonni, anch'io mi sono chiesta ma che cosa può essere successo perché venga data alla interpretazione del diritto del minore, perché noi non dimentichiamo che di questa tutela del diritto del minore i giudici, gli avvocati, gli operatori sociali tutti si riempiono la bocca, ma ancora non si riesce a decifrarne esattamente la sostanza quando poi si arriva alla pronuncia di chi ha in mano il potere, ovvero il giudice. Allora, partendo dalla fine, qua ci viene detto questi nonni non hanno diritto. Partendo dalla fine ci viene detto questi nonni non hanno diritto perché preliminare a loro è la tutela del diritto del minore a non star con loro. Dobbiamo leggere come mai, perché questo purtroppo non ci viene detto, non ci viene spiegato, ma io richiamo all'attenzione vostra e di tutti l'indicazione preliminare che io ho colto nel decreto. Allora, il decreto, dopo aver enunciato che questo procedimento era stato instaurato dai nonni materni nei confronti della figlia, di un minore, della loro figlia, cioè siamo i nonni materni, siamo un conflitto genitoriale tra padre, madre e figlia, no? Ecco, fanno un accenno che ha colpito, che io le riporto anche all'attenzione. Considerato e scritto che questi ricorrenti espongono che, premesse alcune considerazioni sullo stato dei provvedimenti afferenti altro procedimento riguardante la minore, e citano e fanno riferimento a un procedimento che porta il numero 1494, ma del lontano 2012 di questo tribunale. Allora, questo cosa ho capito io? È un contenzioso che intanto va avanti da un bel po', ecco. Esatto, questo ho capito. E ci dice il tribunale dal quale sono stati acquisiti copie di atti. Allora, nella mia logica, diciamo, di avvocato, io mi sono fatta convinta che questi nonni già nel 2012, probabilmente in occasione o subito dopo la separazione, non sappiamo perché non è dato conoscere della figlia, hanno visto interrotto il loro rapporto e hanno iniziato la loro battaglia e sono andati sempre perché è la competenza è quella, davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia. In quel momento, secondo me, sicuramente la causa sarà stata assolutamente vista nella sua completezza. Esatto, e chissà che questo tribunale non ci abbia visto un accanimento anche di questi nonni a voler portare avanti questa battaglia, diritti del bambino leso e anche un po' forse traumatizzato da tutta questa guerra legale che vedeva attorno a sé, quindi ha detto adesso basta, lo stop lo metto io, così a buon senso immagino. Adesso avvocato continueremo, ma intanto Nicoletta, molti suggerimenti. Vorrei coinvolgere anche Alberto Pellai, perché l'occasione ci dà lo spunto per riflettere su questa relazione straordinaria che si instaura tra nonni e nipoti, una relazione che fa bene ad entrambe. Ma Alberto, prima di parlare di questo aspetto, cerchiamo di riflettere sulla figura del nonno che, di fronte alla separazione della coppia, si trova a giocare un ruolo molto delicato e difficile. Da un lato il desiderio comunque di rimanere punto di riferimento emotivo e relazionale per i nipoti, dall'altro deve fare i conti con la legge o anche con il rispettivi coi genitori del bambino, con il figlio, con il genero o con di riferimento. Alberto, quindi una situazione abbastanza difficile in cui è facile scivolare. Sì, i nonni devono fondamentalmente costruire un equilibrio che in effetti non è né tutelato né regolato dalla legge, che quindi entra all'interno del patto, a volte del contratto che viene fatto con i genitori che si stanno separando. È però la loro una figura molto molto importante per vari motivi. Intanto in ambito concreto, i nonni spesso sono proprio quel riferimento a cui fanno ricorso i genitori nel momento del bisogno, prendere i bambini a scuola, curarli quando loro sono al lavoro, quindi sono effettivamente una presenza che fa in concreto delle cose per il bambino. L'altro aspetto è proprio la continuità emotiva affettiva, cioè laddove la coppia genitoriale purtroppo non ha retto al proprio fallimento affettivo, se ci sono i nonni e solo una coppia invece affettiva che è ancora stabile, ecco, i genitori dovrebbero sentire che lì dentro c'è una continuità delle relazioni, la possibilità di testimoniare anche un amore che è resistito, insomma, che è sopravvissuto all'usura della relazione del tempo. E in generale i nonni sono proprio nel codice interiore del bambino un senso di tranquillità, protezione e sicurezza, naturalmente se non entrano nel gioco delle parti e nel conflitto, che e quindi non cominciano anche loro a schierarsi. Alberto, e questo è un rischio molto alto, quello di schierarsi, non ne siamo magari senza averne la piena consapevolezza, ma a volte il cuore ci trascina e quindi di fronte alla sofferenza, al disagio del nipote, il nonno o i nonni possono prendere le parti di uno dei due genitori, in qualche modo, forse anche solo per giustificare, per attutire questo grande tsunami a cui il bambino è sottoposto, ma che non è detto che peraltro sia il figlio, no? Qualche volta si può prendere anche la parte opposta. Perché Alberto, questo è davvero, questo potrebbe aggiungere dolore al bambino. Sì, credo che in generale agli adulti dentro una separazione venga veramente richiesto di fare una sorta di triplo salto mortale emotivo, stando dentro a una situazione difficilissima, di cui però devono comprendere che i bambini sono spettatori, non sono responsabili. In realtà i bambini dentro a quella zona di distruzione devono continuare a fare il progetto di costruzione della loro vita. Allora gli adulti, quando ci sono i bambini nel loro territorio, devono proprio sentire che tutto il lavoro da fare è un lavoro di costruzione anche dentro la distruzione. Questo riguarda i genitori che si stanno separando e questo a maggior ragione può forse riuscire un po' più facile ai nonni, che se non altro hanno la tranquillità della stabilità affettiva della loro coppia e quindi lì dentro possono davvero essere una sorta di baluardo emotivo che protegge un po' il territorio dallo tsunami che si è invece infranto su quella sponda. Vogliamo allora, Deborah, coinvolgere i nostri ascoltatori a raccontarci la loro storia. State vivendo un momento simile a quello che stiamo raccontando. Avete dei nonni, siete nonni, lo siete diventati. Avete sulle spalle un po' l'organizzazione dei vostri nipoti, la gestione. Vi sentite soddisfatti? Questo rapporto vi ha ringiovanito, ricaricato, motivato? Avete una seconda chance per essere il papà o la mamma che non avete potuto essere, presi dal lavoro? Oppure sentite invece più la fatica, il peso, la responsabilità? Perché poi quello che fanno i nonni non va mai bene nulla, o li vizi troppo, o sei magari un po' troppo severo. Invece contesti i metodi educativi. Le zie sono figurati, sono zerbinate come la pelle di leone, lo sai quello che faccio io. Volevo tornare con l'avvocato, sì, c'è anche un'ascoltatrice, in realtà Margherita da Padova era rimasta così colpita dal nostro gioco sui nomi che abbiamo fatto all'inizio, adesso la sentiamo volentieri, però volevo sentire anche l'esperienza quotidiana e il lavoro dell'avvocato Anna Galizia Danovi, perché so che si trova a gestire direttamente nel suo studio casi di conflittualità dove naturalmente i nonni sono loro, non so se dire avvocato, malcapitati protagonisti anche di queste vicende di così conflittualità familiare. Insomma, quali sono le situazioni che gli capita di gestire? Poi andremo al cuore anche di questo famoso articolo del Codice Civile che parla appositamente dei nonni e del loro diritto di vedere i nipoti. Avvocato. Allora, io purtroppo ho ascoltato e ammirato le indicazioni date dallo psicologo, che non sono solo una luce in una situazione purtroppo piena di ombre, ma sono anche, secondo me, io l'ho sempre colto, l'invito a tutte le parti in discussione nel momento del conflitto a investire le loro energie a tutela proprio di quel minore di cui, ripeto, siamo alla fine tutti responsabili. E certo. Ci metto anche gli avvocati, i quali dovrebbero gestire con estrema delicatezza il conflitto, e addirittura ultimamente noi abbiamo degli input anche dal nostro Tribunale di Milano, che, come voi sapete, è all'avanguardia perché è il primo tribunale della famiglia che si è costituito nei lontani anni 70, quindi immaginatelo, quindi è un po' un tribunale che porta avanti anche proprio delle indicazioni. Apri pista su certe... Sì, veramente si parla del rito ambrosiano in tutta Italia, insomma. Allora, qual è il problema enorme e come muoversi in questo conflitto? Partiamo un po' da quello che accade. Io ho una casistica nella quale veramente con fatica riconosco la possibilità di applicare quelle indicazioni sacrosante che lo psicologo ci ha dato, perché i miei casi, e ultimamente le dico, è proprio dopo l'intervento legislativo, quindi dopo l'affermazione giuridica del diritto dei nonni, i miei casi, e ne ho veramente una serie, si assomigliano un po' tutti, e che cosa vedono? Vedono che questo cambiamento che viene portato avanti in maniera crudele, perché questi genitori hanno il potere in mano e lo esercitano pienamente, quindi sono loro che dicono alla bambina: no, l'ultimo caso, questa bambola che ti ha regalato la nonna, la riporti alla nonna, perché qui ne abbiamo tante. Io credo che lo psicologo saprà ben interpretare il significato di un caso del genere. Quindi questi comportamenti manipolatori dei genitori sul minore, molte volte purtroppo, sapete perché si verificano? Perché dietro c'è un vissuto familiare mai risolto, perché dietro ci sono delle istanze che non sono state portate apertamente avanti dal figlio, ma poi la nuora gli apre le orecchie, diciamo così, in maniera molto, molto sbagliata, per prendere posizione contro quel padre o la madre che lui adorava. Perché ancora peggio, ci sono delle iniziative tese a ottenere delle risposte in punto economico e patrimoniale. Questo va denunciato. Certo. È doloroso, ma va denunciato. Va denunciato, ma questo purtroppo, guardi, che non riesci a farlo passare nell'ambito del giudizio, perché bianco contro nero, parola contro parola. Certo. E quindi è un'istruttoria su queste cose, i giudici sono molto negativi. Per qui alla fine ci si arena in un discorso pericolosissimo, che è quello di dire: sentite, io non so i torti delle vostre ragioni, ma questi bambini stanno male, quindi alleggeriamo il carico. Chiarissimo. Questa è la tragedia esatto. di un diritto che sta perdendo proprio la pregnanza che no, il legislatore ha esatto, che si sostituisce quasi ai Sono meccanismi educativi. Sono piccoli e grandi crimini in nome dell'amore, Alberto. Sì, e credo che le due parole forse che su cui dovremmo riflettere sono conflitto, e quello è inevitabile dentro una separazione, ma l'altra parola che ha detto l'avvocato è potere, cioè usare il proprio potere relazionale affettivo su un bambino per incastrarlo in uno squilibrio relazionale del quale il bambino non ha colpa, e tra l'altro che il bambino subisce dentro una confusione emotiva incredibile, quindi questo di sicuro gli farà male. Ecco, forse tra i nostri ascoltatori c'è un bambino, un ex bambino che è stato oggetto di questo crimine, perché ha pagato in prima persona una separazione dolorosa, aggressiva dei propri genitori. Se volete raccontarci la vostra esperienza, perché indubbiamente, ne abbiamo parlato tante volte con Alberto Emotivo, questa storia lascia quello che Alberto certo. dice, il tatuaggio emotivo che per non si cancella no, più. Infatti, per non dimenticare poi in realtà anche un'altra ennesima faccia di questa medaglia che è plurisfaccettata, di quando invece ci sono magari nonni che si intromettono un po' troppo nella dinamica della famiglia, e allora lì si scatenano situazioni di altro tipo che pure... Posso leggerti il messaggio? C'è proprio su questo tema, l'ho chiamato proprio così. Tante telefonate all'800 24 00 24, Margherita, siamo da lei tra poco, ma ci scrive un ascoltatore: sono un papà separato e vorrei chiedere, quando il nonno materno è la principale causa della fine del matrimonio e minaccia anche fisicamente il papà dell'amatissimo unico nipote, che fare? E allora ci sono anche storie di questo tipo, ma ci sono anche i nostri ascoltatori esatto. e i mercati. I mercati. Allora facciamo il nostro dovere con i mercati, poi visto che tutti gli aspetti che voi avete toccato sono delicati e meritevoli di un approfondimento adeguato, facciamo la borsa e poi ritorniamo insieme a voi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Invece di ballare, c'è una ragione per dai, cui sentiamo... Alvaro Soler, anzi, che è anche tanto carino. Molto. Sì, è veramente e delizioso. E infatti noi l'abbiamo in linea con noi, Margherita, sì? Per questo. C'è un legame. Che è il nome della mia ipotetica figlia, se l'avessi avuta. Margherita, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno all'avvocato e al dottor Pellai. Vi ascolto sempre, grazie. Radio preferita. Grazie. E questa è la sua trasmissione preferita, naturalmente. Non si può Beh, dire. Oggi in particolare. Perché? Perché si parla di nonni, si parla di nome di bambini. Posso parlare? Certo. Sì, certo. Sono diventata nonna da 5 giorni. la prima nipotina in assoluto da parte di mia figlia. E qua ci scatta la lacrima, Margherita. Le dico solamente che Nicoletta non parla perché c'è il luccicone nell'occhio. No, perché ci immedesimiamo no, tutte. Noi, che emozione allora, grande. Questo paese in cui non si nasce quasi più, sembra invece altro che... È vero, sì, è proprio così. Ecco, infatti noi siamo molto felici che i figli si siano sposati e soprattutto che abbiano deciso di avere anche un bambino. Ecco, così ha guadagnato bambina. Anche due zie. Questa bambina che si chiama... Si chiama Siria, con l'Y, la prima I è un Y. Allora, questo nome che ci è stato detto abbastanza tardi, per una serie di ragioni, così aspettavano l'ultima ecografia, la ragione è stata questa: loro si chiamano Simone e Ilaria e ci hanno spiegato a noi nonni, hanno fatto l'acronimo, alla crasi, i nonni, sì, e la zia hanno detto è l'insieme del nostro amore, bello, del nostro amore da noi due, Simone, Ilaria, viene Siria. Fatalità è anche un paese che molto purtroppo in questi anni momento difficile ecco, è stato un caso, ed è anche il nome di una cantante che forse insomma è abbastanza nota, ma non c'entravano niente le due cose, è stato proprio un caso, e quindi ce l'hanno comunicato, non ci avevano detto assolutamente niente prima, noi con molta discrezione non siamo mai intervenuti a ossessionarli in nessun modo. Eh sì, perché ci manca pure che cominci con il nome, no? nonni discreti, bravo, felici. Sì, io e mio marito ci siamo posti fin dall'inizio, sia coi figli prima e anche adesso di dopo. Essere discreti, presenti ma discreti. E resista Margherita, mi raccomando, brava. Auguri, complimenti alla neononna. Esatto, sempre per animare invece il nostro dibattito di questa mattina sul ruolo dei nonni nella vita dei nipoti e il ruolo che rivendicano anche, giustamente naturalmente, dopo che i genitori si separano, ma insomma è dovuto intervenire anche un tribunale di Venezia per ristabilire un po' di ordine in questo forse diritto che in maniera eccessiva questi nonni probabilmente rivendicavano nella vita di questa nipote, figlia della loro figlia, che si stava separata, anzi, perché in realtà abbiamo scoperto, poi ricostruendolo, provando a ricostruire questo caso, che era una battaglia legale in corso che andava avanti già dal 2012, mentre questo decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia è datato proprio 7 novembre, quindi da pochissimi giorni. Allora, per animare un po' questo argomento, abbiamo l'avvocato Galizia Danovi, ma anche Alberto Pellai, sentiamo gli ascoltatori che dice. Volentieri, andiamo prima da Silvia da Roma e poi subito a Riccardo da Forlì. Silvia, buongiorno. Buongiorno a voi, sono nonna Silvia. Nonna Silvia, sì, guardi, è un argomento che mi interessa molto, perché io sono figlia di separati e purtroppo ho una figlia che si è separata quando aveva due bambini, per cui ecco, volevo esprimere questi due concetti che io ho vissuto in prima persona. Sapevo cosa aspettavano i cuoricini dei miei due nipotini, perché l'avevo vissuta in prima persona, e so che un bambino fino alla fine, io ancora li ho persi i miei genitori, ma desidera fino alla fine la riunione dei suoi genitori. Però ricordo anche la presenza della mia nonna materna, che andava d'accordo anche col genero, con mio papà, per cui mi capitava molto spesso di andare da lei con mio papà. E questo mi dava il calore della famiglia, insomma è stata una cosa che mi ha aiutato moltissimo. Allora, se posso così nel mio piccolo consigliare qualche nonno, è proprio di mantenere il rapporto anche con il genero o la nuora che va incontro alla separazione, certo. Ecco, di non creare la frattura, perché il bambino ne soffre moltissimo. È il più grande regalo che possono fare ai loro nipotini, ecco. Grazie Silvia per la sua testimonianza, che immagino sia l'avvocato Galizia Danovi che Alberto Pellai condivideranno, perché nelle loro parole nella prima parte della trasmissione hanno già sottolineato quanto importante sia tutelare il bambino, il minore, e soprattutto l'esperienza della nostra ascoltatrice va in questa direzione. Poi abbiamo Riccardo da Forlì e ancora i nostri esperti. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Qua guardiamo l'altra faccia della medaglia, forse. Allora, io ho chiamato perché la signora che avete come ospite è un avvocato, dico bene? Sì. Ho inteso bene? Sì. Ecco. E io un quarto d'ora fa circa trasecolavo quando sentivo la signora parlare di genitori crudeli, oppure no, gli oggetti rispediti ai mittenti creano... sono casi che lei ha affrontato, riportava la sua esperienza, Riccardo, non è che raccontava di qualcosa... Certo. Allora guardi, io sono padre di 42enne di due bimbi di 9 e 6 anni, devo gestire un pochettino la situazione di mia madre, cioè quindi la nonna lato paterno, la quale se da un lato è commoventemente disponibile da un punto di vista logistico, consentendo anche a me e mia moglie di ritagliarci i nostri spazi, no? Dall'altro per poter uscire e conservare, quindi ci gestisce i bambini, poi però, perdonatemi il termine non molto radiofonico, in una serata in condizione di sputtanare un mese di principi. Insomma, diciamo così, si allarga un po', ecco, perché... Riccardo, ha ragione. Allora, io ho ragione, però sai, stavo pensando a che ricordo ne avranno questi nipoti quando avranno 20, 25, 30 anni e ricorderanno il papà si arrabbiava sempre, ma noi la nonna ci faceva tutto, ci cucinava le cose buone. Io la vedrei anche un po' così. Mi rendo anche conto che magari, ecco, il profilo educativo, se viene messo duramente in discussione per Riccardo, poi ristabilire l'ordine è difficoltà, magari qua Alberto ci viene in soccorso. Alberto, ma direi che è una cosa frequente, no? Che quando i bambini vanno dai nonni spesso sperimentano proprio dei codici, regole, modi di stare con, che sono diversi da quelli che sperimentano con i genitori. I genitori non si dovrebbero spaventare così tanto, cioè è proprio vero che probabilmente i nonni hanno delle modalità differenti da quelli di mamma e papà, però i bambini sentono e percepiscono la differenza e quindi hanno ben chiaro che la cornice delle norme, delle regole che vengono messe da mamma e papà, dal nonno magari valgono un po' meno oppure non valgono del tutto, ma quelli sono i nonni e questo non significa che le regole saltano per aria. È chiaro poi che se mamma e papà e nonni riescono comunque a offrire una continuità educativa ai nipoti, i nipoti hanno una percezione di un mondo adulto che ha una mente comune sul loro percorso di crescita. Certo. Allora, io direi che adesso possiamo sentire il traffico, poi completiamo questo ragionamento con l'avvocato Galizia Danovi. Peraltro alla fine l'abbiamo richiamato mille volte, ma questo famoso articolo 317 bis del codice civile, che ha inserito appunto nel codice questo diritto dei nonni a avere una presenza appunto nella vita dei nipoti, lo banalizzo ovviamente il concetto, soprattutto nel caso di separazione, perché questo ancora non l'abbiamo detto, dobbiamo specificare con attenzione che ruolo può, ha diritto di ricavarsi il nonno nella vita dei nipoti a fronte di una separazione appunto dei figli, perché questo è quello che ci interessa capire, insomma quanto ci si può spingere o se effettivamente è vero che i genitori che si stanno separando possono dettare completamente le regole, quindi arginare anche la presenza del nonno nella vita dei bambini. Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico, andiamo e torniamo. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Cuore e denari. Allora, sui nonni poggia la vita di tutta la famiglia, lo sappiamo che questo è vero. Ti rubo, Nicoletta, dei dati che hai trovato proprio tu, no? Sui nonni poggia la vita familiare e lavorativa di figli e figlie con bimbi a seguito. Parliamo di un esercito in Italia di 3.200.000 persone, secondo l'INPS, un esercito che si occupa abitualmente dei nipoti mentre entrambi i genitori lavorano. Un esercito che peraltro è festeggiato anche tutti gli anni, no? All'inizio di ottobre c'è la festa dei nonni. E noi quest'anno forse l'abbiamo tralasciata, adesso ci stavo pensando un po', rifestiggiamoli ora, dai, oggi un po' in ritardo. Avvocato Galizia Danovi, allora le chiedo un commento se ritiene sui casi che abbiamo sentito prima e in più ci precisi un po'. Allora, mamma e papà si separano, ci sono dei bambini, i nonni, a che cosa aspetta ai nonni? A prescindere dalle situazioni di buonsenso, ammettendo che tutto avvenga serenamente, non ci sia bisogno di stabilire nessuna regola. No, perché ci sono anche dei casi di totale serenità in cui ai nonni è permesso di continuare a vivere serenamente in rapporto con i nipoti. Se scatta invece un pochino di conflittualità, ecco, che cosa hanno diritto i nonni? Allora... mi consento una precisazione. Certo. Il 317 bis del codice civile al quale facciamo continuamente riferimento non parla di separazione dei genitori. L'articolo è dettato solo per stabilire e riaffermare questo diritto dei nonni di continuare a poter fare i nonni, diciamolo in parole semplici, come facevano prima. E con la annotazione che quell'ascendente al quale è impedito questo esercizio può ricorrere al giudice affinché siano adottati provvedimenti idonei nell'esclusivo interesse del minore. L'articolo si ferma qui, ma come abbiamo ben visto, e mi ha fatto molto piacere, mi ha allargato il cuore le testimonianze date, perché purtroppo la patologia che io e probabilmente il professore psicologo tutti i giorni si confronta, eh sì, sono molto diversi. Certo. Ecco, comunque, quando invece il conflitto scoppia, e quindi quando scoppia generalmente in una causa di separazione, che cosa succede? Allora, io posso dire due cose. Oggi in una causa di separazione, come tutti sanno, viene gestita dal tribunale ordinario. Tutte le cause di separazione, sia che si tratti di genitori coniugati o non coniugati, vengono gestite al tribunale ordinario. Quindi attenzione che ci spostiamo da una competenza del tribunale dei minorenni, come abbiamo visto nel decreto che commentiamo, a una sentenza del tribunale ordinario. Ebbene, non è raro che i provvedimenti che vengono emessi, che tendono a organizzare la vita della famiglia, se se ne fa domanda, possono fare riferimento ai nonni. Mm. Questi provvedimenti, ripeto, tendono a stabilire la vita della famiglia nella maniera migliore rispetto, certo, a come è sempre andata. E si sta arricchendo la giurisprudenza in questo senso, avvocato? Allora, la giurisprudenza milanese assolutamente sì, perché non di rado il presidente, mettendo i provvedimenti che stabiliscono dove mi ha collocato il minore, i tempi di frequentazione su domanda delle parti, può benissimo prescrivere il rispetto anche delle frequentazioni che i nonni continuano a mantenere con i nipoti. Certo, c'è questa premessa, non può venire fuori un nonno che non ha mai visto il nipote a chiedere di vederlo, certo, a fine settimana alternati, deve esserci una continuità e quindi il giudice è garante di questa continuità. A riguardo però, vi consenta, perché è un po' il mio pensiero dominante, di ricordare che questa gestione del conflitto nei casi di separazione, al di là della normativa, al di là delle prescrizioni date dal giudice, ha il baluardo sul compito dell'avvocato. E l'avvocato ultimamente a Milano è stato richiamato in maniera, e è molto importante che lo si sappia, estremamente anche dura, a svolgere il suo compito non come solo avvocato della parte che assiste, ma anche avvocato e protettore dei minori ove presenti nel giudizio. E si è arrivati a dire, e sono cose nuove che vengono oggi, sono molto importanti perché si crea giurisprudenza nuova, che l'avvocato nel conflitto genitoriale, nelle cause di separazione e divorzio in presenza dei minori, svolge un servizio di pubblica utilità. La nona sezione del Tribunale di Milano ha stabilito questo principio, arrivando a dire che si svolge un servizio ed è parte del servizio di pubblico della giustizia, è onerato del dovere di proteggere anche gli interessi che incontra in occasione del processo di cui prende parte e in particolare deve tutelare l'interesse, certo, del minore. Guardi che è importantissima questa, certo, cosa. Questo cambia e sottolinea, cambia lo scenario. E io vorrei tornare proprio con lo scenario che ha appena delineato l'avvocato Galizia Danovi ed Alberto, a cui chiedo un po' di raccogliere i pensieri conclusivi di questo incontro che è partito da una sentenza. Abbiamo parlato di nonni, di separazioni, abbiamo parlato di famiglia, certo, e quindi in fondo di cuore delle relazioni che quando si interrompono o diventano conflittuali recano sempre delle sequele che possono essere molto dolorose. Alberto. Ma in una separazione gli adulti sono veramente invischiati nell'emozione della rabbia e quasi sempre la rabbia porta gli adulti a fare delle cose contro qualcun altro. Non dovremmo dimenticare che l'emozione dominante nel mondo dei bambini è invece quella della tristezza. Stanno soffrendo tantissimo perché la separazione dei genitori per loro è un cambiamento totale di tutto e dei loro riferimenti affettivi. Allora è fondamentale che gli adulti si spostino da fare azioni contro a fare invece azioni che sono con e per i loro bambini. Questa è proprio una rivoluzione totale anche del loro normale modo di procedere e chi come me a volte aiuta le famiglie a separarsi, a farlo bene significa proprio abbandonare il vestito, il codice della rabbia e entrare più in quello della compassione, cioè si patisce tutti con qualcuno, ma la logica è che poi alla fine il bene reale da proteggere sono i nostri figli, che non possono diventare uno strumento per agire contro l'altro, la nostra rabbia. E ricordo l'invito anche avvocato dei Silvia, la nostra ascoltatrice, sì, che diceva: come nonna cerchiamo di mantenere dei contatti buoni con il genero, la nuora, oltre che con il proprio figlio, di non parteggiare, ma esatto, di diventare una sorta di collante, di cercare di formare un nucleo in cui il ragazzino, il minore, possa trovare nutrimento e quindi lenire un po' il dolore che arriva dalla separazione. Avvocato, 30 secondi. No, un commento. Posso fare i complimenti a chiamare codice della rabbia? Allora, per noi avvocati il codice è l'insieme delle regole, regole che non possono che portare a qualcosa di obbligatoriamente positivo. Qua c'è il codice della rabbia, bellissimo, lo farò mio nei miei atti. Bene, bene, combineremo piacere una prossima puntata molto qua in volentieri studio con l'avvocato Galizia Danovi e Alberto Pellai, che mi sembra si siano piaciuti si molto siano trovati e molto anche bene i nostri ascoltatori. Ma il nostro salotto è ambitissimo, lo sai, no? Bene. Lo so. Noi torniamo domani, intanto da cuore e denari a tutti, come sempre, con affetto. Una buona giornata.